Ipocrita Milan, non parli della Juventus stamattina, ipocrita, giornalista di due soldi, ipocrita. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Chi l'ha detto, cari ascoltatori, che in questa trasmissione non si possa parlare di Juventus? Non è mica il medico che ce lo impedisce, no? Intanto io, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno a voi, buongiorno all'Alpino in regia, buongiorno a Elisabetta Fusconi, a Miriam Lucchetti, a Lorenzo Nespoli, buongiorno a Leonardo Manera in anticipo, buongiorno a tutti, 349-238-6666, buongiorno a voi cari ascoltatori. Qualcuno mi dice, chiamate ad Adinolfi. Sì, probabilmente lo faremo. Io ho portato anche qui un reperto, devo dire, qui, nel senso che potete vederlo in diretta video su Facebook, un reperto è un po' come la zucchina di Manera. Manera c'è la zucchina, io c'ho la pera. Ne ho una, è un po' marcia come si vede, ma la tengo lì per affetto, in frigorifero è una. Però uno poi sbaglia può, tutto, può moltiplicarla per 4 e vederne 4. La rete di Rebic. Insomma, potrei dividere in 4. Eccolo qua. La pera. La pera è una pera, posso confermarlo. La potete vedere in diretta su Facebook. Eccola qua, la mia pera. Oggi sarà un po' così, tenuta in alto per salutare tutti gli amici all'ascolto. 800 24 0024. Ride bene chi ride ultimo, Alpino. Non fare lo sborone, come dicono alcuni. Stiamo calmi, stiamo sereni, stiamo tranquilli al nostro quinto, sesto posto dove stiamo. Vai intanto, vai che abbiamo tantissimi argomenti da trattare fino alle 11. Ma diciamo largo e facile. Largo e facile. Enthusiasm about the future. Mamma mia ragazzi. Gliel'avevamo detto ieri Leonardo Manera, gli ha detto attento con questa protervia, attento con questa sicumera, attento con questa arroganza, Mario Adinolfi. Vabbè dai, parliamo d'altro. Oggi io ci sono tantissimi argomenti da trattare che mi hanno colpito. Si può parlare di coronavirus e lo faremo, avremo con noi, tornerà il professor Remuzzi, parleremo di turismo, se volete, in qualche modo legato a questo tema coronavirus con il primo ospite in apertura. Parleremo di vicende legate a violenze sulle donne. Certo che però poi io ho trovato questa notizia a pagina 6 di Repubblica in taglio basso, come si suol dire in gergo giornalistico, cioè in basso, in pagina in basso, e secondo me questa è la notizia che accerta giorno dopo giorno che non ce la si fa. Siamo un paese che si arrende. Guardate, c'è scritto nel titolo: il Viminale si arrende. Chi è il Viminale? Il Viminale è il Ministero dell'Interno. Il Viminale si arrende. Di cosa si parla? Delle votazioni. Sapete che si vota in alcune regioni a settembre. Avevamo detto: ma non è il caso di far ripartire la scuola? Attenzione, perché riparte la scuola, poi si vota, si sa che i seggi elettorali sono nelle scuole. Cos'è? Già la scuola è stata ferma 6 mesi, la facciamo ripartire con chissà quale fiducia che rimangano aperte e subito le richiudiamo per i seggi. Non si può votare altrove, per una benedetta volta, invece che richiudere subito le scuole. Eccolo qua, il Viminale si arrende dopo il no delle Poste, perché avevano chiesto alle Poste di poter utilizzare gli uffici postali per votare. Si voterà nelle aule. Alessandra Ziniti racconta: Puglia, Campania hanno deciso, si torna sui banchi il 24 settembre. Pensate, il 24 settembre, con 10 giorni di ritardo sulla campanella nazionale, perché lì si vota, sono regioni in cui si vota. Addirittura il sindaco di Venezia propone di riaprire il 10 ottobre le scuole, per forse anche la stagione turistica. Ma sì, riapriamo, ma riapriamole nel 2021. Io ho detto: ma non riapriamole più, chi se ne frega. Abbiamo parlato ieri col professor Cacciari dell'importanza della scuola, lui ci ha assicurato e confermato cosa che si sa dalle statistiche, che la scuola è all'ultimo punto, incredibilmente, sembra all'ultimo punto dell'agenda di tutti i governi italiani, perché chi se ne frega, i risultati sono che abbiamo pochi diplomati rispetto all'Unione Europea, pochi laureati rispetto all'Unione Europea, siamo praticamente ultimi nelle classifiche, un popolo che non ha cultura, non ha istruzione, è un popolo destinato a fallire miseramente. E allora cosa succede? Non si è riusciti a trovare un modo per votare non nelle aule scolastiche. Io alla fine l'ho commentata così su Facebook, ma sapete che c'è? Meno male che in Lombardia non si vota, e arrangiatevi voi altri, tanto ormai qua è il ognuno si salvi chi può, si salvi chi può, questo è il si salvi chi può. E allora va bene, mors tua vita mea, in Lombardia non si vota, le scuole saranno aperte, in Campania arrangiatevi, in Puglia arrangiatevi, dove si vota, in Toscana, non lo so, arrangiatevi. Mi dispiace, sono umanamente vicino ai cittadini, ma mi dispiace, è così, non siamo riusciti, il governo non è riuscito a trovare una soluzione per non far votare nelle scuole, magari non gliene frega neanche, non c'è stato grande impegno nel pensare a questo, forse è un problema solo mio e non frega niente neanche a voi, non lo so. 800 24 00 24, saluto il primo ospite che è il sindaco di Codogno, torniamo da lui, è presidente anche della provincia di Lodi peraltro. Buongiorno Francesco Passerini, buongiorno, sindaco. Buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, ma è vera questa storia che lei ha denunciato, che ci sono suoi concittadini che quando chiamano per andare a fare una settimana di vacanza, qualche giorno di vacanza, meritato dopo anche tutto quello che è successo in questi mesi, si sentono dire: scusi, lei di dov'è? Di Codogno, grazie. Guardi, cos'è? Le dicono, è pieno, le no? Dico, cosa dicono? È capitato a un sindaco di un comune limitrofo che abita a Codogno e si chiama Passerini. Però sì, è successo, abbiamo sentito purtroppo alcune esperienze, grazie a Dio, isolate, quindi casi eccezionali, perché comunque voglio sottolineare la tantissima solidarietà che ho avuto, che abbiamo ricevuto da tutte le parti del paese, sindaci, amministratori locali. È chiaro, qualcuno probabilmente ancora vivendo probabilmente l'ignoranza di perché oggi pensare di evitare la provenienza in quelle che sono strutture ricettive per chi viene dalla Lombardia, dal Lodigiano o da Codogno, credo che sia una cosa folle, pressoché folle, cioè non ha nessuna base, nessuna motivazione, nessuna logica, anche perché sicuramente magari potevo pensarlo, capirlo, magari no, però pensarlo intorno ai primi giorni, quando ancora magari adesso no, non c'è erano un po' oggi, uno stigma, purtroppo è un po' così, cioè lei teme che Codogno debba portare un po' una sorta di stigma, no? Magari detto, non detto, è un po' terribile questa cosa effettivamente, no, anche perché poi si è accertato che il paziente cosiddetto 1, vabbè, ma non è il primo che si è ammalato di Covid, è il primo scoperto, ma esatto, anche, esatto, anzi è stato il primo territorio che si è preso la responsabilità di combattere questo virus che penso che ormai sia aperto e conclamato, che girava nel nostro paese già da diverso tempo, e quindi c'è, cioè, anche per lo spirito col quale la nostra comunità hanno affrontato questa emergenza, questa pandemia, innanzitutto proprio col senso di responsabilità di dire chiudiamo noi perché fuori, ma perché era quello lo spirito. Poi purtroppo abbiamo scoperto che in giro c'era già, però credo che sicuramente non sia stata tanto una colpa, ma quantomeno un destino dal quale fortunatamente è stato scoperto il Covid, perché io non so cosa sarebbe successo se ciò non fosse avvenuto il 21 febbraio. Sì. Lei ha avuto tempo mai di mettere la testa in maniera lucida, non preso dalle tante cose da fare su tutto questo periodo? Cioè, come lo racconterà tra 5 anni, 10 anni? Guardi, le dico la verità, non ancora. Sinceramente non c'è ancora stato momento, ma credo che sono cose che metabolizzeremo col tempo. Alla fine è stata una corsa a 300 all'ora su una strada nuova, su una macchina quasi nuova, su una strada che non conosci, quindi è stata una cosa veramente, un susseguirsi di eventi di una velocità incredibile, e quindi insomma ci vorrà un po' di tempo, ecco, per metabolizzare bene, però quello che sicuramente ho ha realizzato è stato veramente il coraggio, la forza, la dignità, l'orgoglio delle nostre comunità, che quando non era così scontato capire che cosa stavamo vivendo è stato accettato comunque con piena responsabilità, piena serietà, e credo che anche i risultati di contrasto al virus sia dovuto anche a quello. Sì. Adesso la situazione a Codogno com'è? Come casi? Zero? No, zero, sì. Sì, nella nostra città già da diverso tempo, diverse settimane, non registriamo più nuovi casi di positività, le persone sono praticamente tutte, abbiamo ancora due casi che sono ancora ricoverati, però per il resto rispetto a più di 600 persone che erano purtroppo, stavano combattendo contro questa malattia, oggi ce ne sono un paio, nella provincia di Lodi ci sono stati in tutta la provincia 4 casi 3 giorni fa, poi sono 2 giorni dopo 4 che eravamo a 0, adesso sono altri 2 giorni che sono a 0, quindi numeri molto circoscritti, limitati, e spesso comunque questi escono da esami test serologici, quindi vengono identificati immediatamente, isolati immediatamente, trattati immediatamente. Quindi, ma no, sì. Ma questa è la verità, cioè siamo purtroppo, sa cosa, sindaco, un paese di superstiziosi, a me questa cosa infastidisce tantissimo, e quindi io posso capire posso capire il meccanismo che porta una struttura turistica a sentire magari dove vedi Codogno, no guardi Codogno, oddio, si toccano, fanno gesti, è terribile, ma è una parte culturale del nostro paese, purtroppo. Sì, no, purtroppo. Diciamo sul fatto, io lo credo veramente assurdo, che vada anche un po' oltre la superstizione, perché insomma in questo momento veramente pensare che ci sia un comune come quello di Codogno, ad esempio, che abbia qualche criticità endemica o ci sia, ecco, è folle, è completamente una follia. Anzi, il mio invito è tutti coloro che vogliono venire nell'Lodigiano o a Codogno, noi ospitiamo tutti, siamo pronti ad accogliere tutti, e appena sarà possibile faremo anche dei momenti dove tutti coloro vorranno venirci a trovare, ci potranno trovare in gioia, in allegria, in festa, perché quello comunque vuole tornare ad essere il nostro spirito, la voglia proprio di ripartire. Chiaramente non si può ancora fare, ma appena si potrà, che anche in territorio lombardo si arriverà a contagio zero, che è quello che veramente spero presto, sarà per noi veramente un onore, un piacere, sì, poter ospitare tutti coloro vorranno venirci a trovare, perché Codogno e Lodigiano è molto altro rispetto al Covid, certo. Soprattutto più che al Covid è il primo territorio che comunque ha iniziato questa battaglia in nome di tutto il paese. Ma no, ma certo, è giusto che lei anche porti alto l'orgoglio, insomma, di far parte di una comunità. Io la ringrazio, Francesco Passerini, sindaco di Codogno, sindaco della Lega, non avevo detto il partito, non che cambi granché in questo caso, però è giusto, insomma, dire l'appartenenza politica. E anche presidente della provincia di Lodi, lì da dove tutto è iniziato, almeno per quel che sappiamo dai giornali, sappiamo anche che in realtà non è iniziato tutto lì in Italia, ormai questa è storia, e che racconta, si vede rifiutato da alcuni cittadini, ad alcuni cittadini di Codogno, la possibilità di andare a fare le vacanze, perché appena si sente dire da dove vieni, da Codogno, la gente reagisce incredibilmente in questa maniera. Ma io vorrei introdurre il mio successivo ospite, che è un grandissimo ritorno, con l'audio di una persona che io devo dire viene sbertucciata da tutto il mondo, è uno dei re dei negazionisti, insieme a Trump, insieme a come era stato Boris Johnson, è il presidente del Brasile, Bolsonaro, che dopo aver detto praticamente per mesi e mesi, ma sì, è una febbriciattola, qualcuno ha detto dobbiamo morire, ma tanto prima o poi dobbiamo morire tutti, un'altra volta ha detto qualche mese fa, credo, è incredibile, i brasiliani bevono acqua delle fogne e non gli succede niente, questo vuol dire che siamo un popolo molto forte e vigoroso. Bolsonaro alla fine si è ammalato. Vai Alpino, fallo sentire. Se tivesse feito o esame, non saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então. Deu positivo. Positivo. Agora, insomma, questo si capisce, l'annuncio di Bolsonaro che dice positivo, qualcuno dice andrebbe premiato con un premione dei nostri, insomma di quelli che il nostro Alpino conosce, perché ecco questo qua, premio Giachetti, hai la faccia come il culo. Vabbè, no, qui rischiamo anche l'incidente diplomatico, non è così. Io però devo dire una cosa, nel salutare Giuseppe Remuzzi che torna con noi, buongiorno professor Remuzzi, no, buongiorno. Grazie. Io dico questo, ma non è che Bolsonaro poi alla fine trasformerà tutto questo in una sua vittoria, nel senso che lui ha sempre detto è una febbriciattola adesso che dice sì sono positivo ma sto già meglio, non è niente di che, andrà in giro confermando a dire avete visto, sono positivo anch'io ma basta, l'ho fatto, punto. Non c'è questo rischio del voler sminuire a tutti i costi, professor Remuzzi? Sì, sì, c'è il rischio anche perché l'80% delle persone hanno questa malattia in una forma lievissima. Le persone che hanno posizioni di potere fanno il tampone, gli altri no, e quindi sono positivi, ma non è detto che abbiano sintomi o hanno sintomi lievissimi, e allora fanno passare la malattia che hanno attraversato loro in un modo leggero, perché nella maggior parte dei casi è così, come è una cosa che chiunque può affrontare facilmente senza nessun problema. In realtà il 15% delle persone hanno forme gravi, il 5% vanno in rianimazione e la metà di loro muoiono. A questo punto, a che punto siamo, professore? Lei per primo qui a questi microfoni ha detto, anche subissato da molte critiche a livello nazionale, ha registrato quello che clinicamente si vede, e cioè i dati che ci ha detto adesso, e che le terapie intensive sono vuote, come fortunatamente rimangono vuote, creando insomma questo dibattito che c'è stato sull'idea di dire attenzione, ma così si rischia di abbassare la guardia, arriverà l'autunno, arriverà la seconda ondata. A che punto siamo, professore? Allora, io credo che gli scienziati non sono divisi. La divisione si crea molto spesso nei talk show televisivi, dove uno mette Trump contro Biden, e allora è bello vederli litigare, è bello veder litigare anche gli scienziati, se no non c'è lo spettacolo. Ma in realtà, se voi guardate che cosa dicono gli scienziati in questo momento in Italia, poi a me non piace chiamarli scienziati perché io faccio il dottore, per me scienziati sono i fisici nucleari, tutta un'altra cosa. Cosa dicono tutti? Dicono che non ci sono più malati negli ospedali, al punto che non riusciamo più a fare gli studi. Che nei tamponi che facciamo adesso, non a persone malate, ma a persone che fanno il tampone per ragioni di screening o per sapere come sta andando la malattia, o perché vanno in ospedale e si fa il tampone a tutti, anche se uno va in ospedale per una occlusione intestinale e si trova uno positivo, noi guardiamo quanta carica virale c'è ed è bassissima, così bassa che non infetta le cellule in cultura. E che verosimilmente, secondo un articolo di Nature, non è nemmeno contagiosa. Su questo sono d'accordo tutti. Sono d'accordo tutti che il virus è mutato, il virus continua a mutare, ma continua a mutare in un modo che non è favorevole a noi. Muta nel senso di essere capace di infettare più cellule. Ormai siamo passati da un certo tipo di virus che aveva una cosiddetta spike protein, è quella punta che vedete sul virus che serve per attaccarsi al recettore, quella punta lì continua a mutare. Pensate che in uno stesso individuo è mutata persino 9 volte durante la malattia questa spike protein di quel virus lì. Questo però non presagisce a buoni possibili però sviluppi, non è favorevole a noi. Questo è la cosa che dicono tutti. La quarta cosa che dicono tutti è che forse ci sarà una seconda ondata o forse no. Se voi guardate bene, tutti sono d'accordo su queste quattro cose. Quindi gli l'ultima però è molto aperta, perché forse sì, forse sì. No. Aperta, cioè è come dire non sappiamo come andrà a finire, che è la cosa più logica. Allora, la malattia in Italia si sta esaurendo. Adesso non vuol dire che tra 15 giorni non ci potrà essere ancora. In questo momento non abbiamo nessun malato negli ospedali, non riusciamo a fare gli studi, abbiamo 2 farmaci estremamente promettenti, in cui io personalmente credo molto, non abbiamo la possibilità di fare gli studi, e questo per chi sta dall'altra parte è una cosa bellissima. Ecco, e ribadiamolo per gli ascoltatori, perché sennò la gente deve capire bene, se il professor Remuzzi dice la malattia si sta esaurendo, non vuol dire il virus sta scomparendo, sono due cose diverse, totalmente diverse. Il virus c'è, è ancora quello di prima, e circola, e basta vedere il Brasile, basta vedere l'India. Però c'è una cosa che è un salto che io trovo molto sbagliato, è molto sbagliato concettualmente in tutti i campi, non soltanto nella medicina. Qualcuno dice non devi dire la verità perché sennò le persone tolgono la mascherina, ma questo è un salto che non sta in piedi. Tu devi dire la verità, Secondo me, se dici la verità e spieghi alle persone che forse questo successo che abbiamo avuto nelle ultime settimane dipende anche da determinati comportamenti, rendi la gente ancora più partecipe e ancora più entusiasta a mantenere le distanze, a mettere la mascherina e lavarsi le mani, che sono le uniche tre cose che servono. Adesso è uscito ieri un lavoro bellissimo che fa vedere che la possibilità di prendere il virus toccando delle superfici è praticamente inesistente. Allora, e questa è una buona cosa. Certo, è un salto però dal dire le cose come stanno, al dire no, ditele diverse perché sennò la gente fa così. Sbagliato, sì. Non è lei, compito lei non nostro, lo accetta, no. Insomma, come no, dire. No, assolutamente no, è sbagliato. Senta, professore, le faccio questa domanda visto che lei è medico. C'è grande dibattito, ieri è intervenuto l'ex procuratore di Roma Pignatone, ho visto anche Gustavo Zagrebelsky, che è un grande giurista, sulla stampa, il dibattito sullo scudo penale per i medici, perché adesso, dopo averli definiti eroi, rischiano i medici di essere travolti da una serie di cause di chi pensa che anche in emergenza coronavirus i propri cari siano stati curati male. Come la risolviamo? La risolviamo, secondo me, però all'italiana, uno scudo penale e va bene, allora è muro contro muro così, no? Con lo scudo a parte che lo scudo penale, le leggi, le cose, ci vogliono 10 anni ora che queste cose vanno in porto, i medici non sono protetti. Io trovo veramente grave che i medici prima siano eroi, poi loro dicono no, non siamo eroi, facciamo di tutto. Voi non avete idea di che cosa vuol dire avere davanti in pronto soccorso 80 malati che non respirano, senza terapia, perché per questa malattia onestamente la terapia non c'è, c'è qualcosina che fa qualcosa in qualche malato, ma veramente alcuni malati muoiono per delle ragioni che dipendono dalla genetica, da un sacco di situazioni ambientali che non hanno niente a che fare con le cure che fai tu. Allora, io credo che di fronte a questa cosa bisogna avere il coraggio di dire quello che ha detto un grande neurochirurgo degli Stati Uniti: siccome per denunciare i medici ci vogliono degli avvocati, noi non curiamo più gli avvocati, non curiamo più le mogli o le compagne degli avvocati, non curiamo più i loro familiari e neanche le loro segretarie. Accidenti. Questa è una cosa che poi non Accidenti. Si fa, però secondo me bisogna cominciare a dirlo, è una cosa che poi non si fa. Salutiamo i tutti gli avvocati e le segretarie degli avvocati all'ascolto. I medici hanno sempre curato tutti, compreso i terroristi, compresi gli eroi di guerra. C'è una storia meravigliosa di Ferdinando Palasciano, che era un ufficiale medico dell'esercito borbonico. Lui si è messo a curare i ribelli siciliani, volevano fucilarlo, però lui era così bravo che era amico del re, l'hanno messo in carcere invece di fucilarlo, e lui si è messo a curare le persone che stavano in carcere, che erano persone dall'altra certo. parte. Quindi i medici alla fine curano tutti, però questo è davvero una cosa. Chi è questo americano, chi è per questo professore? Me lo devo appuntare, c'è il nome. È un ufficiale dell'esercito. Ah, quello che no, il dicevo il quello neurochirurgo. Che degli... sì, il neurochirurgo sì. glielo mando, perché adesso non ricorda il nome. Non mi ricordo, è uno Chris Awak, mi pare che si chiami, Chris come Chris. H-A-W-H, e lui è uno dell'Associazione dei Medici Americani, tra l'altro è uno dei pochi che non è mai stato denunciato in America, ma però... anche da noi. Fare il medico per 40 anni e non avere almeno una denuncia è praticamente impossibile. Il 90% delle denunce vanno a finire in niente, vuol dire che non erano giustificati. Adesso hanno trovato, poverino, questi, non so, onorevole Gelli, loro si danno da fare, e quello che hanno fatto è dire, vabbè, se uno usa le linee guida non può essere perseguito, ma loro lo sanno che le linee guida sono linee guida vecchie di 10 anni, perché per fare una linea guida ci vogliono talmente tante evidenze, talmente tanti studi, talmente tante cose, che se io curassi i miei malati con le linee guida li curerei come si curano 20 anni fa con farmaci tossici, adesso invece abbiamo dei farmaci meravigliosi. Quindi è una cosa che non sta in piedi, questa qua, è grave. Sapete che la gente non fa più il neurochirurgo, non fa più l'ostetrico, non fa più il traumatologo, perché è troppo pericoloso. Alla fine è una miopia questa qua. Arriveremo, immaginatevi la medicina cosiddetta difensiva, a me non piace il termine, applicata a tutte queste persone gravissime, dove tu fai tutto quello che puoi, poi ti stanchi in un modo pazzesco, arrivi a casa la sera che non sai più dove sei, sei terrorizzato che ti chiamino ancora, devi ripartire alle 6 del mattino. Quando hai addosso quella stanchezza lì, tu fai veramente fatica e puoi anche sbagliare. Non c'è una via d'uscita, i medici non sono scelti. Intanto l'ho anche trovato, professore, su sua segnalazione, questo Chris, sì, Oak forse sì, chirurgo del South Carolina, questa, sì, esatto, questa idea, i medici, esatto, non curino più avvocati, familiari e segretari degli avvocati, esatto, così non ci sono cause. E ha fatto anche una mozione all'American Medical Association, esatto, gliel'hanno bocciata, gliel'hanno, sì, ovviamente, sì, no, ovviamente, sì, gliel'hanno bocciata. Però cominciamo a dirlo, sì, cominciamo a dirlo, io penso è una provocazione forte, perché tanto non lo facciamo, ma bisogna, sì, incominciare a dirlo. Anche perché negli Stati Uniti poi ci sono dei professionisti, non so, di malattie renali, o di quello mi intendo un po', e loro, sì, studiano, sì, sì, una singola malattia renale, nefropatia da IgA, sanno tutto, e dicono alle persone: denunciate, tanto poi in questo periodo di crisi diventerà ancora più drammatica, la cosa più semplice è denunciare i medici che hanno fatto uno sforzo spaventoso. No, ma è chiaro. Professore, io la ringrazio sempre per la, grazie, disponibilità. Professor Giuseppe Remuzzi, dell'Istituto Mario Negri. Andiamo un attimo in pubblicità. Arriva Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma scusate, ma quando non c'erano i vaccini influenzali, quando c'era l'influenza, cosa faceva? Il mondo si fermava e non si faceva più niente, non si lavorava più. A me sembra che si stava a casa e ogni tanto si sentiva dire: ah, è a casa con l'influenza, oppure hai già fatto l'influenza. Beh, ma mi sembra coerente che la gente rifiuti le persone di Codogno. Noi teniamo chiuse le scuole, abbiamo un popolo di ignoranti e poi questi sono i risultati. Avanti così! Da juventino, tifoso non praticante, dico meno male la Juve ha perso, ogni tanto perdono anche loro, altrimenti che palle, sempre la solita monotonia, che vita monotona, la McLaren in Formula 1, la Juve nel calcio, meno male un po' di varietà. Signori, tra l'altro saluto Leonardo Manera, al quale oggi alle 9:31 abbiamo mandato il codice per collegarsi. La zucchina, sì, mi pare di capire, sia morta, definitivamente. Oggi purtroppo è deceduta la mia zucchina, alla quale mi ero anche affezionato, perché ci si può affezionare a tutto, no? Come nel film si affezionava alla Wilson, ti ricordi? Non ricordo il titolo del film in questo momento. Ti non ricordi importa, il pallone da calcio? Sì, sì, ma non importa. E quindi anch'io mi ero affezionato a quella zucchina, perché ci si può affezionare a tutto nella vita, ma ho visto che non ce la faceva più e quindi l'ho destinata verso la sua destinazione, appunto, sì, verso l'umido, la sua destinazione. No, sei molto amareggiato, ma non per questo. Ieri, dispiace, qualche giorno fa, dispiace, ci hai fatto capire che non ti diamo il codice per collegarti. E anche oggi, infatti, anche alle 9:31 è arrivato il messaggio di Leonardo Manera in chat: mi date gentilmente il codice, ragazzi. Sì, io capisco di essere vissuto. Storia triste, sì. Io vengo vissuto all'interno di questa trasmissione come un peso, un fardello. Non è vero! Una zavorra, la zavorra Manera. Ma non è vero! Sì, sono una zavorra, un inutile orpello. Ecco, come ma la non zucchina è vero, che è finita. Come la zucchina che è finita nell'umido, anche Manera viene vissuto come un orpello inutile, pari all'importanza di una zucchina ormai un po' ammuffita. Ecco, questo. Ci sono tante cose a cui pensare, siamo una CNN in fibrillazione dalle 8:30, tu fai questo, tu chiama quello, la scaletta, apri, guarda, da domani mi prendo l'impegno io di mandarti il codice appena mi sveglio alle 7:30. Va bene. È per quello che mi ero affezionato alla zucchina, perché almeno sentivo, anche se lei non poteva parlare, che almeno lei mi voleva bene e ci teneva in qualche modo a me. Cioè, comunque, e tu quindi ti riferivi a Castaway di Tom Hanks. Castaway con Tom Hanks, esatto, sì, esattamente. Sì, si era affezionato al pallone da calcio col disegno, della faccina. Della faccina, figura antropomorfa, e io mi ero affezionato a quella zucchina che io sentivo condivideva qualcosa con me. Che infatti era quindi sempre più vecchia, sempre più gobba, ingobbita. Potevi farle il bastone, metterle uno stuzzicadenti a fianco. Vabbè. ma ho visto che non ce la faceva più e quindi è stata necessaria quella scelta pur dolorosa. Sì. Signori, non sei l'uomo forse più triste al mondo, ma facciamo una chiamatina ad Adinolfi? Gliela vogliamo fare una chiamata a Marion Adinolfi, a vedere se squilla, se come sta? Perché uno dopo una giornata, una serata così, aveva fatto un po' il gradasso. Ti ricordi ieri che aveva fatto lo smargiasso? Gliel'ho detto, infatti. Lo so. Pronto? Ah, suona. Vediamo un po' se suona. Pronto, Marione? Ho provato ad occultarmi, a nascondermi, non gli ho dato questa cosa. Ma noi ti scoviamo dovunque tu sia. Perché fai lo smargiasso? Smargiasso di giorno e poi alla sera? Perché fai? Te l'aveva detto Manera? Non so se hai notato che sono rimasto sostanzialmente sotto shock. E ho risposto al tuo tweet dopo mezzanotte perché ero convinto fosse un sogno, un incubo, qualcosa che non era realmente accaduto. E te la sei presa con Sarri, guarda lo juventino che se la prende con Sarri. Con Tappetaro, capito? Tu lo vedi Max Allegri che va 2-0 a San Siro e prende 4 gol in 20 minuti? Noi ti vogliamo bene, Marione. Allora, abbiamo preso il tuo pronostico di ieri, allora ti vorrei far passare sotto questa piccola forca caudina. Il nostro alpino, sì, ma tu avevi detto anche una cosa di Bonucci molto interessante. Il nostro alpino, Peter Mescapè, ha fatto un montaggino. Senti un po', dai, divertiamoci così. Il montaggino, vai. Rabiot salta 2, avanza ancora Rabiot si accentra, potrebbe anche andare al tiro. Rabiot ci prova ed è un super gol di Adrien Rabiot. Occhio intanto a Ronaldo, pallone passa, Ronaldo è solo davanti a Donnarumma e non sbaglia, il gol del 2-0. Oggi uno solo è ovvio, segna il capitano del Milan, oggi segna il capitano, il grande capitano. E chi sarebbe? Leonardo Bonucci. Calcio di rigore in favore del Milan, tocco di braccio di Bonucci. Parte Bonucci con il destro, quinto del campionato per Ibra e il Milan la riapre. Cialanoglu dentro ancora da Ibra, che sì, in aria. Il resto è storia. Non sto a dire che il rigore non c'era, ovviamente, però questa cosa per uno Juventino era nettissimo. Gomito largo, si sa. Vabbè. Comunque restano 7 punti sulla Lazio, questo sì, è una notizia buona. Scudetto in cassaforte. Ci ha perso a Lecce e noi siamo arrivati lì a San Siro pensando di fare la sgambatura con gli ammogliati. E invece gli ultimi 20 minuti avete voluto far sul serio e vabbè, succede. Scudetto in cassaforte. Champions League in cassaforte, ma chi gli frega? Non insistiamo adesso, è il gufaggio, bravo Pescapè. Ma Pescapè è Juventus? No, è rosso-nero. Per me è Juventus. È un fratello, qua solo rossoneri. Tu lo vesti e ti fa finta di essere rosso-nero. In realtà è Comunque, da milanista io devo dire che è una vittoria di Pirro questa per noi milanisti. Sì, è una soddisfazione che magari ci porterà in Europa League, però insomma vale poco. A fare i preliminari di Europa League, io ve lo auguro tanto. I preliminari devono sfondare anche la prossima stagione. Tu ci vuoi a giocare a Malta ad agosto, fine agosto. Con un nuovo allenatore, perché Pioli è troppo scarso. Dovete prendere quello nuovo per fare una bella figura anche l'anno prossimo. Un po' come voi. Come voi, auguri. Prendiamo un altro Tappetaro. Dai, voglio ringraziare Marione, voglio ricordare il tuo libro, dillo tu, urlalo, ne abbiamo parlato ieri, Il grido dei penultimi. Tanto comincia un tour da Pomigliano d'Arco tra 3 giorni, l'11, tour. Perché vai da Di Maio? Ci sono 4.500 cassintegrati che nessuno... a cui nessuno presta attenzione. L'8 giugno doveva riaprire la fabbrica di Pomigliano d'Arco, non ha riaperto, non riaprirà perché, come sai, il settore automobilistico ha perso il 46% della sua produzione e quindi quei penultimi, dimenticati da tutti, hanno fatto, sono 4.500 famiglie a cui nessuno dà retta, proviamo a partire da Pomigliano d'Arco, che è anche la città dei Pomigliano Boys, cioè quelli che poi sono stati assunti a Palazzo Chigi da Di Maio, perché è sempre bello avere un amico con cui hai fatto il liceo, diciamo, insomma, che diventa vicepremio. La stoccatona, la stoccatona di Agnolfi. Marione, un grande abbraccio, dai, su, forza, scudetto e Champions League è fatta, vai. Traffico. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, fa notare Chiaretta, la mia amica Chiaretta, che più che morta l'hai suicidata la zucchina, effettivamente. L'hai suicidata. Sì, non se ne poteva più di questa zucchina, caro Leonardo. Non ce la faceva più. Io ho visto che era sofferente, non si reggeva più in piedi. E allora ho preso atto della sua volontà, che era quella di farla finita in modo dignitoso, prima che la condizione diventasse eccessivamente gravosa per lei. E quindi sono andato incontro ai desideri della zucchina. Perché stiamo parlando essere... di una zucchina, infatti, ricordiamolo, cari ascoltatori, no? Perché non vorrei che la gente all'ascolto poi si facesse delle strane idee. Una zucchina ingobbita. Io ho cercato... Tu non sei collegato, dimmi, su Facebook, ma io ho una pera, l'ho portata per Adinolfi, l'ho portata in onda, e praticamente ne avrei dovuto portare quattro, ma ne ho una. E effettivamente è un po' come la tua zucchina, comincia a diventare... cioè c'è il rischio davvero che diventi come la tua zucchina, perché io ho cercato di essere empatico cercato di essere empatico con lei quando appunto la situazione si era aggravata, non ce la faceva più, si appoggiava alle pareti del frigorifero. Ho deciso di fare quello che anche lei desiderava, quindi in questo anche se per me è stato comunque un dolore, perché mi ero affezionato appunto lo sentiamo molto, lo percepiamo questo dolore. Vabbè. A te, oggi sei amaro per questo? O... No, non sono amaro oggi. Oddio, un po' di amarezza c'è sempre. Oggi in apertura si è parlato di vacanze. La vacanza per molti di noi è l'unico momento di relax dell'anno, perciò sarebbe necessario che andasse tutto bene. Per me, purtroppo, non sempre è stato così e anzi ho vissuto alcune esperienze che mi hanno fatto rimpiangere di non essere rimasto a casa. La prima fu una vacanza di gruppo, eravamo in sei, tre coppie. Avevamo affittato un appartamento senza sapere che tipo di appartamento fosse. Quando siamo arrivati, la mia fidanzata di allora, visti i letti e i materassi, ha pianto. Ho cercato di consolarla, ma è servito a poco. Vai. Poi in quella vacanza ognuno avrebbe dovuto cucinare a turno anche per gli altri, ma per non si sa quale motivo si era innescato un meccanismo di critica per cui ogni coppia criticava pesantemente quello che veniva messo sui fornelli dalle altre coppie, come una specie di Masterchef ante litteram. Successivamente all'interno di una coppia si crearono dei dissapori che inevitabilmente ne crearono anche nelle altre coppie. Morale, eravamo partiti in tre coppie, siamo tornati sei single, avvelenati e profondamente delusi. Un'altra vacanza terribile l'ho vissuta in Sardegna, non per la Sardegna in sé ovviamente, ma per la situazione che si era creata. Ero andato con una ragazza che non era ancora la mia ragazza, ma io speravo che lo sarebbe diventato nel corso di quella settimana. Ma ahimè, la dolce fanciulla pensava ancora al suo ex, che anni prima aveva conosciuto proprio in Sardegna e tra l'altro nella stessa zona in cui eravamo noi. Quindi ogni angolo le ricordava proprio il suo ex. Io provai a farglielo dimenticare, pur con tutte le mie carenze, ma ad ogni mia manovra lei aveva l'immagine incancellabile del suo ex che si palesava anche in camera da letto come un ologramma. Morale. Lei se ne andò prima del previsto, io rimasi lì, solo, con una esofagite da reflusso pesante che avrei dovuto curare per lungo tempo al mio ritorno. Ricordo infine... Questo era allegro, oggi non era amaro, no? No, infine, vediamo, infine, infine. La terza vacanza nei pressi della costiera amalfitana. La mia compagna di allora, che a quei tempi viaggiava poco, aveva scelto un alloggio decisamente poco confortevole, una specie di bed and breakfast, dove dormire nel letto era più scomodo che dormire per terra. La colazione era con un caffè acquoso e brioche che era una sottomarca di altre sottomarche. Invece di quelle brioche veniva voglia di mangiare gli insetti che circolavano copiosamente per terra, sia nella presunta sala colazione che in camera. In più, a forza di camminare, perché a lei piaceva camminare, a questa, a Vietri sul mare fui vittima di una spaventosa vescica che mi impedì di proseguire serenamente la vacanza e che mi obbligò al mio ritorno ad andare al pronto soccorso. Unico caso, credo, di ricorso al pronto soccorso per una vescica, per cui venni palesemente deriso dai medici di turno. Poi, pochi mesi dopo, con quella ragazza, inevitabilmente ci lasciammo e io avevo ancora tracce della vescica sul piede. Le vacanze, anche se durano pochi giorni, una settimana o due, poi si ricordano per tutto l'anno, a volte per tutta la vita. Dateci la possibilità che siano piacevoli, altrimenti l'amarezza del brutto ricordo ci accompagnerà per sempre, senza via d'uscita, senza possibilità di riscatto. Bene. Tiriamo su un po' il morale con gli applausi, mi sembra giusto. Quindi oggi non era amaro, ma nera. No, la musica era allegra. La musica era allegra. Che botta di vita con Manera, questo ascoltatore che dice: beh, non esagera, meglio il Covid, non facciamo queste battute stupidine. Però che botta di vita Manera, effettivamente. Ma c'è una vacanza, quella famosa vacanza che è andata a meraviglia. Ci penso, ci te lo dico dopo la pubblicità, dopo il giornale radio. Ce ne sarà una che è andata a meraviglia sicuramente, adesso ci penso un attimo. Però non la ricordi, insomma. Se è andata forse così, questo è il meccanismo. Se è andata a meraviglia, ti passa così, quasi inutilmente. Dunque, sai che adesso dire una che è andata uno a meraviglia, scampolo, per esempio, di vacanza. Un giorno di una vacanza, bellissimo. Un viaggio, viaggetto. Sì, ecco, no, una la ricordo. Ecco, adesso l'ho ricordata. Sì. Ero in Sardegna, ecco, ero in Sardegna a Stintino. Dai, dai Alpino, ero in Sardegna a Stintino con la mia fidanzata di allora. Correva l'anno 2000 e fu una meravigliosa vacanza in cui non solo le cose andarono benissimo con quella ragazza, ma anche poi scrissi dei pezzi per lo spettacolo proprio durante quella vacanza, che utilizzai a lungo negli spettacoli successivi, almeno fino al 2001, anno in cui poi comunque ci lasciamo. Però poi quella vacanza del 2000 andò molto bene. È stata bella perché almeno è stata proficua professionalmente, ti ha fatto scrivere delle cose importanti. Sì, anche dal punto di vista sentimentale la vacanza comunque andò bene. Credo che fosse una delle prime vacanze che facevamo, forse in Sardegna. Quindi bella, vi siete lasciati l'anno dopo, va bene. Buone vacanze, grazie Manera, dice anche Sandro. Buone vacanze, caro Leonardo. E noi andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Amici ascoltatori, allegria! Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Uno Nessuno 100.000. Ciao Milan, io sono del Torino e stamattina ti pensavo. Forza Juve! Manera, il film è Castaway e il pallone non era da calcio ma da volley. Caro Manera, era Castaway e il pallone era da pallavolo. Wilson. Castaway, capra! Vabbè ragazzi, però non accanitevi, anch'io inizialmente non l'avevo capito, anche perché se l'ha spiegato molto male. Io non ho detto che era un pallone da calcio, non ho mai detto mi sembra che era un pallone da calcio. Attenzione, non lo so, vai a attenzione. Recuperare. Ma... mi sembra solo un pallone. Sfida però... Lucchetti. Pensa allora, adesso... contento di Miriam Lucchetti di andare a verificare questa cosa. No, adesso dobbiamo parlare di una cosa molto molto seria, una storia che mi ha letteralmente inquietato quando l'ho letta ieri sulla stampa, raccontata da Gianluigi Nuzzi. Non conoscevo questa storia che vede protagonista, suo malgrado, Jessica Maurovic, che è con noi. Buongiorno signora Maurovic, grazie di essere qui in diretta. Buongiorno. Allora, Jessica Maurovic purtroppo è stata vittima di un'aggressione, la faccio molto in breve, una relazione finita e il suo ex compagno che un anno fa, se non sbaglio, l'aggredisce a colpi di pistola. È terribile dirlo, ma è così in sintesi, no? Sì, ha tentato di uccidermi perché ha mirato proprio in direzione del cuore e alla gola. E insomma, fino a qui, diciamo, fortunatamente lei è viva, è qui. La cosa incredibile, la storia incredibile di tutta questa vicenda è che questa persona è stata individuata, è stata arrestata, farà un processo ovviamente. In attesa di tutto ciò, dopo un anno è libera, completamente libera. Non vogliamo entrare nelle questioni legali, ma lei è riuscita a capire il motivo per cui questa persona è libera? Ma da quello che ho capito io, perché è stato interrogato qualche giorno prima della scarcerazione, ha convinto il PM e il giudice del suo pentimento del gesto che aveva fatto. E beh, per carità, sì, va bene, sarà anche pentito, non lo sappiamo, noi forse ha convinto il giudice, però basta questo. L'accusa è tentato omicidio? Non ho idea. Non so cosa basti per farsi scarcerare, non lo so. No, chiedeva a Leonardo Manera, l'accusa è tentato omicidio, questa è l'accusa di cui deve rispondere. È tentato omicidio, sequestro di persona aggravato. C'è da dire che il giudice che l'ha liberato ha emesso questo provvedimento. Non può questa persona circolare in Friuli Venezia Giulia, la sua regione. Però voi capite che i controlli non è che siano così stringenti in questo caso. Lei come vive in questo momento? Io sono vivo nel terrore, nel panico più totale, perché ogni volta che esco dalla porta di casa mi sento sempre seguita e ho sempre paura di qualsiasi persona che mi si avvicina. Quando vedo una macchina o un mezzo come il suo, come quelli che aveva lui in disponibilità, mi si ferma il cuore ogni volta. O anche in giro per strada, quando vedo persone fisicamente simili di spalle, mi blocco. Certo, sono proprio vive nel terrore. Vive nel terrore che possa rimaterializzarsi. Non è un problema che la riguarda, ma lei si è chiesta se davvero questo pentimento, se può credere nel pentimento di questa persona? Io personalmente non credo nel pentimento, dopo non so, non sono nella sua testa e non voglio neanche entrarci. Assolutamente. Tutto questo in attesa di giudizio. Sì, è incredibile. No, ma perché, per carità, cioè, si dice sempre se è colpo bisogna essere garantisti, a parte che qui l'atto c'è stato, cioè non credo che lui neghi, abbia mai negato l'atto in sé, o no? Di non essere stato lui, no? Le evidenze sono chiare. Quanto rischia questa persona dal punto di vista del carcere? Non lo so, non ho proprio idea. C'è da dire che è stato lasciato a piede libero perché il giudice ha ritenuto che non ci sia il rischio di reiterare il reato. Sì, evidentemente. Devo dire, attenzione nei confronti della vittima, lo dico io, mi assumo la responsabilità, meno mille, neanche zero, perché conterà il terrore psicologico nel quale la signora Maurovic vive, no? Conterà, già solo questa è una dimostrazione del fatto che dire, scusate, io sono terrorizzata, come posso avere la certezza che non capiterà niente a me? Questa cosa non è. Non hanno neanche sentito il vostro legale, non hanno sentito un vostro parere prima di questo provvedimento. Ma la richiesta di domiciliari è venuta più volte, al quale il mio avvocato si è sempre opposto, ovviamente. Questa volta qua invece non è servito a niente. C'è da dire che vivere in questa situazione, purtroppo ne abbiamo viste di situazioni di varie denunce. Lei aveva denunciato, aveva... No, non ho mai denunciato prima. Non ho mai denunciato perché appunto non sapevo come comportarmi, nel senso dico denuncio e poi ritorno a casa con la persona che ho denunciato. Non sapevo proprio come muovermi. Cioè non sente di dire, non si sente protetta e tutelata dall'istituzione, non si sente sicura, mi sembra di poter dire. No, anche se le forze dell'ordine fanno tutto quello che possono, ovviamente anche loro si trovano con le mani legate. Una storia del genere io non so se abbia grandi precedenti dal punto di vista... Insomma, vedere dopo un anno una persona che ha aggredito così libera, per carità, in attesa di un processo. Come vive lei? C'è una rete di protezione? Ha una serie di amici? Una serie di persone che in qualche modo le fanno scudo? Oppure così vive nell'incertezza? No, cerco di vivere come meglio posso, anche perché io ho una figlia, quindi devo garantire anche stabilità a mia figlia. E siamo circondati da tantissime persone che ci vogliono bene, familiari, amici, parenti, e loro si prendono cura di noi, anche loro al meglio che possono, ovviamente nelle loro possibilità. Insomma, il giudizio non è magari... ancora arrivato nemmeno ovviamente al primo grado, non c'è stato ancora il primo grado di giudizio, quindi potrebbe essere una situazione che ipoteticamente si potrebbe anche trascinare a lungo, insomma, se si prevede i vari gradi di giudizio. Siamo ancora in attesa che venga fissata proprio una prima udienza. Ma lei, voglio dire, signora Jessica, non ha le istituzioni cosa possono fare? Nel senso che lei se vuole anche fare un appello, cioè dire io sono in questa situazione, sono impaurita ed è capibile al 100%, cioè cosa può fare lo Stato, cosa possono fare le istituzioni per lei? Non lo so, a quanto pare al momento non dico niente, ma poco niente, anche carabinieri e polizia mi hanno garantito più ronde sotto casa. Ma hanno detto entrambi, finché non c'è un contatto di qualsiasi tipo, ovviamente hanno anche loro le mani legate. Questa è una cosa che io non ho mai capito, perché sa che tante donne, tante vittime di violenza raccontano la stessa situazione, che è la vita concreta, quello che ci ha detto lei, eppure abbiamo scoperto qualche anno fa che in teoria le leggi garantiscono un inasprimento delle pene, garantiscono più protezione, giustamente si dice denunciate, perché adesso le istituzioni, ci sono le leggi per proteggere le persone, poi quando si sentono le persone coinvolte nei casi, più o meno i racconti sono come il suo, cioè a dire in parole è così, ma poi si resta soli. Infatti, grazie a Dio, io sola non sono, perché appunto, come ho detto prima, ho tantissime persone attorno che fanno il meglio che possono. Non sono le istituzioni, per l'appunto, non sono le leggi, è un bene che ci siano queste persone, ma non è che tutti possano averle come lei. Signora Jessica, noi la ringraziamo, è una storia abbastanza incredibile. Dicevo che l'unico modo per tamponare la situazione probabilmente è quello, cioè essere sempre circondata, accompagnarsi con persone che le vogliono bene e che le danno un sostegno sia morale e anche fisico, nel senso di far vedere che lei comunque non è sola. Certo, infatti non stiamo mai da sole, mai, assolutamente. Ok, che è una forma di autoprotezione, insomma, che è quello che uno può fare in queste situazioni. Noi, signora Jessica, la ringraziamo, ripeto, Jessica Maurovic, è una storia abbastanza allucinante, insomma, da raccontare, ma è così, insomma, la persona che l'ha aggredita, il suo ex compagno, e le ha sparato, mirando per ucciderla, e quindi sequestro di persone, tentato omicidio, è libera in attesa del processo, libera non nel senso che è stata giudicata innocente, ma libera perché il giudice ha creduto a un suo pieno pentimento. Ci sarà il processo, in attesa, è a piede libero, non può entrare in Friuli Venezia Giulia, ma come dire, Leonardo, non è che ci sono i posti di blocco per entrare in Friuli Venezia Giulia. La cosa incredibile che è vera è comunque che le forze dell'ordine, finché non c'è un atto lesivo, non possono fare nulla. Io ricordo che anni fa mi capitò di essere minacciato da un signore che aveva dei grossi problemi, andava in giro col coltello, andai dai carabinieri, loro mi dissero: finché questa persona materialmente non le fa qualcosa, noi non possiamo fare nulla. Questo signore poi andò ad accoltellare un'altra persona e a quel punto lo fermarono, ma in qualche modo era tardi. Sì, tieni conto che in questo caso sarebbe la seconda volta in cui questa persona nei confronti di Jessica Maurovic, esatto, ci auguriamo, cioè, qualcosa ha già fatto di molto grave. Comunque andiamo a sentire informazioni sul traffico. Ehi, voi. Qualunque cosa stiate facendo, seguite il filo di ciò che vi dico. In poltrone e sofà c'è il metà prezzo su tutta la collezione. In più, si può pagare in 48 mesi senza anticipo e senza interessi. Ma seguite ancora il filo del discorso. Con la collezione Gran Magnificat, divani a soli 900 euro. Meno di 70 centesimi al giorno. Avete seguito il filo fin qui? Allora vi conviene correre nei nostri negozi. Poltrone e sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Uno, nessuno, 100 Milan. Sorry. One, two, three, four. Allora, 10:23 minuti, caro Leonardo Manera, sei contento che tra una settimana basta, puoi andare in vacanza? Certo, se le vacanze tue sono come quelle che ci hai raccontato. Intanto sono contento che andrò via una settimana con mio figlio, e questa è già una buona cosa. Le vacanze con mio figlio devo dire che sono sempre piacevoli perché mi obbliga a fare dell'attività fisica, a come giocare, quelle sullo a pallone, sci. A nuotare. Quando sì, ti sei molto arrabbiato perché non riuscivi a mettere gli scarponi dai quali non avevi tolto la bambagia o la carta e hai abbandonato la struttura alberghiera tre giorni in anticipo per questo nervosismo. Ricordiamo, è tutto agli atti. Sì, però gli sport invernali sono sempre più pericolosi di quelli estivi, insomma è difficile farsi male nuotando, anche se una volta mi capitò. Parlò quello che si fratturò la milza giocando a tennis. No, ma potrei continuare per... Allora, una volta mi capitò con un windsurf, praticamente facevo l'animatore in quegli anni. Mettiamo la base amara, qui ci sta la base amara, caro Peter. Allora, praticamente io sapevo un po' andare col windsurf, non benissimo, ma insomma me la cavavo. C'era in questo villaggio, correva l'anno 1987, c'era lezione di windsurf e io mi ero incapricciato di una ragazza di Como che stava appunto facendo lezione di windsurf. Io ero lì a osservare la lezione, utilizzando il momento anche per guardare lei. Questa ragazza non riusciva a tirare su la vela, ad alzare la vela dall'acqua. Allora io, che ero su un altro windsurf, ho detto: vengo io, ti aiuto io. Mi sono tuffato e appena sono riemerso con la testa, lei, questa ragazza, col windsurf mi è venuta dritta dritta sotto l'occhio, causandomi una ferita dalla quale ha cominciato a sgorgare copiosamente il sangue e per la quale ho dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. ragazza con la quale peraltro non ho mai avuto a che fare. Non è successo nulla, questo non c'era, dubbio, non c'era dubbio alcuno. Va bene signori, dai, vogliamo parlare, adesso abbiamo parlato di una donna che nella sua sofferenza ci ha spiegato questa difficoltà di vivere con il terrore che si rimaterializzi la persona che le ha sparato un anno fa, incredibile. Adesso vogliamo parlare di un'altra donna che è stata sulle prime pagine dei giornali. Adesso fortunatamente l'eco sui giornali si è un po' placata. Parlo di Silvia Romano, che lo sapete, è stata rapita, portata in Somalia, poi liberata, dietro sicuramente pagamento di riscatto, e poi si è ripresentata in Italia con il velo. Ha fatto anche una prima intervista a una rivista online legata, qualcuno dice, ai Fratelli Musulmani. Ha parlato di velo, di libertà. Allora, io vorrei salutare Karima Mual, giornalista italo-marocchina per La Stampa. Buongiorno Karima, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, io ho letto con molta attenzione il commento che lei ha scritto sulla Stampa. Lei che è sempre stata, diciamo, a favore di Silvia Romano, a dire viva la libertà, non attaccate questa donna, però questa associazione velo libertà come scelta di libertà non le è piaciuta proprio, se ho capito bene. Sì, allora, noi quando è arrivata Silvia Romano, se vi ricordate, ci fu un grandissimo, ci furono tantissimi attacchi a questa ragazza perché è arrivata velata e perché è arrivata convertita all'Islam. Tutti l'hanno indicata come convertita al jihadismo, alla religione dei Shabab, e io un po' con le pinze ho cercato invece, dato che nei primi giorni e fino all'altro giorno non aveva rilasciato alcuna dichiarazione raccontando di quella che è stata la conversione, a me è bastato, mi sarebbe piaciuto che ci bastasse dirle bentornata, dato che è stata appunto prigioniera 18 mesi in mano a una organizzazione terroristica, non credo benevola, ma assolutamente violenta. Quindi questo è quanto io avevo scritto a suo tempo, proprio perché nel rispetto della donna, sì, della giovane, della volontaria, e sapendo benissimo che questi 18 mesi non sono stati assolutamente una passeggiata, ma probabilmente c'è stato un trauma, c'è qualcosa di ma sicuramente di così, profondo, una grande sofferenza, esatto, sì, certo, una grandissima sofferenza. Dopodiché però l'altro giorno è uscita questa sua prima intervista su un quotidiano online, come lei ha descritto poc'anzi, islamista, e quindi anche la scelta non è casuale, ma questo, siccome noi non abbiamo pregiudizi, io non ce l'ho, come ho dimostrato in questa vicenda, ho letto con molta attenzione questa testimonianza e devo dire che non mi ha fatto assolutamente star serena. Io dico questo: secondo me la scelta del velo e della libertà, forse in Italia, in un paese emancipato, io lo posso anche, cioè non posso entrare nella testa e non posso giudicare. Vorrei poter fare un sondaggio in Arabia Saudita libero. Chiedendo a 100 donne se sono liberamente felici di portare il velo anche integrale. Non so quante risposte positive otterrei. Guardi, allora, la vicenda sui veli è una vicenda complessa, che io e lei in questo piccolo spazio, e credo anche in uno spazio più lungo, potremmo risolvere. È evidente che ci sono tanti veli e c'è una grande componente non piccola di donne che effettivamente scelgono di metterlo nella loro libertà, ma ci sono anche tantissime altre donne che sono obbligate a metterlo. Certo. Allora, questa parte della storia dei veli non possiamo nasconderla, anche perché ci sono paesi teocratici che impongono il velo, come ha detto anche lei, sull'Arabia Saudita piuttosto che in Iran, e piuttosto anche in altri paesi che non sono teocratici ma hanno una cultura patriarcale e una modalità di pensare e di dettare un po' anche il modo di vestirsi alle proprie donne, che non ci possono far dire oggi che c'è una piena libertà. Dopodiché non siamo in Italia, abbiamo una componente della comunità musulmana che è di 2.500.000 persone, abbiamo anche musulmani italiani convertiti, abbiamo donne che in libertà mettono questo velo. Io non voglio andare a parlare su quello, io voglio parlare su come lei invece si approccia a questo simbolo da convertita, rilasciando un'intervista nella quale parla del suo velo come qualcosa che le dà onore, dignità, libertà, ma poi dall'altra parte ingabbia quelle donne che non lo portano in mercificazione del corpo, in forme femminili comunque non adeguate da coprire, insomma questa divisione radicale del chi porta il velo è meglio, è più diciamo insomma, è più libera perché non esibisce come una merce le proprie forme. Sì, è un po' un atteggiamento radicale, ma è una cosa che non può essere accettabile, va approfondita perché non è così. Io penso sempre alle donne come una pluralità. Certamente c'è una mercificazione del corpo, ma anche la copertura del corpo è a suo modo, quando non è in libertà, una mercificazione del corpo, perché sennò una scelta libera deve poter accettare liberamente anche la scelta di chi non lo porta e di chi vuole vestirsi come si vuole vestire, e deve difendere la libertà delle donne che invece non lo vogliono portare. Questa la cosa che un po' mi ha colpito, ecco, da questa intervista, e non mi è piaciuta assolutamente, anche perché noi in Italia abbiamo davvero tantissime ragazze di seconda generazione che lottano nelle quattro mura di casa su appunto patriarcati vecchi e nuovi con i genitori. Abbiamo avuto Sina Salem, abbiamo avuto Sana Dafani, che sono delle ragazze che nella loro libertà non portavano il velo, purtroppo ma hanno toccato qualcosa di misogine, di patriarcale, e l'hanno pagato con la loro vita. Quindi con la vita. Molto ma io la ringrazio, Karima Mual, è un'analisi interessante, ovviamente il tema è molto profondo, non è che possiamo esaurirlo in pochi minuti, dobbiamo andare alle informazioni sulla borsa e poi rientriamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Paperback writer. Manera mi dà la spinta per andare avanti tutta la giornata, ecco, peggio di così non potrebbe accadere. O forse sì, non lo so, però grazie Manera, sono Vanna da Viareggio. Alessà, buongiorno, c'è la novità, va tutto bene, tutto bene, salvo intese. Salve, volevo sapere se ci saranno 6 settimane di repliche della vostra trasmissione o ci propineranno qualcos'altro, grazie. Propineranno è poco simpatico. Sarebbe utile saperlo, sai? Tu sai se saranno mesi di repliche. Ma tu lo sai, dovresti sapere cosa succede. Cosa succede? Secondo me, allora te lo dico io. Cosa succede a fine luglio, agosto? Dai. Su. Allora, fine luglio, agosto noi non ci siamo in diretta, e quindi ci sarà una nuovissima trasmissione, no. Una nuovissima trasmissione, no. Con nuovi conduttori, no. Per quelle 6 settimane, una trasmissione, no. Estiva, frizzante, divertente, brillante. No, ci sarà un meglio di, ma credo di un'ora, sfida Luchetti, dovrei dire sfida Nespoli, però più che sfida Luchetti, sfida Nespoli, credo, meglio di... Sì, ma cosa urca? Non è che devi lavorare, sei pagato lo stesso senza lavorare. Ma poi non sei contento? No, pagato no, non sono pagato ad agosto, ma nell'altra ora cosa va? Un programma nuovo, una cosa nuova, frizzante, adesso, fresca, estiva, divertente. Sì, non lo so. Allora, sfida Luchetti, dai, il palinsesto estivo, me lo fai, ecco, snoccioli, guarda, di così. Guarda, faceva il fenomeno e adesso sfida Luchetti, il fenomeno Milan. No. Ah, tu non sai quello che... Sfida Luchetti, cosa c'è nel palinsesto estivo? Che poi sfida Luchetti, una che lavorasse, Luchetti, si sa. Vogliamo ricordare la tecnica Lucchetti, Leonardo? La tecnica Lucchetti è aggirarsi da un tavolo all'altro, da un ufficio all'altro con delle carte in mano, sbuffando, fingendo di avere molto lavoro da fare in modo da non fare alcun lavoro. Questa è la classica tecnica Lucchetti. Tra l'altro il meglio di Uno Nessuno 100 Milan, siccome è difficilissimo trovare un meglio in questa trasmissione, è solo è per mezz'ora, quello che dura un'ora d'estate il no, dura mezz'ora dalle 9.30 alle 10 e guardate che in quella mezz'ora è faticosissima da trovare, perché capite che il meglio di Uno Nessuno 100.000 è una contraddizione clamorosa. Io farei quel che resta gli avanzi di Uno Nessuno 100.000. Beh, storica trasmissione, avanzi, è un po' copiato. Sei un copione. Io ho fatto il sabato qualche anno fa un programma su Radio 24 di sabato con Daniele Cevo, si chiamava Avanzi di Manera, con scarsissimi risultati, giusto, un totale insuccesso. Sai il vero insuccesso? Esatto. Ecco, Avanzi di Manera. Se dobbiamo citare un insuccesso tra i vari che ho avuto è Avanzi di Manera. Un giorno, bene, però, dopo averlo fatto, sì, per un intero anno, arrivò una mail e Guido Scotti, sì, disse: è arrivata una mail, come dire, caspita, allora uno che vi ascolta c'è. Ecco, quella restò l'unica mail che arrivò ad Avanzi di Manera, la trasmissione di maggiore insuccesso ovviamente del palinsesto. Una mail di critica, ovviamente, una mail di critica. Questo non ricordo. Devo dire. Allora, salutiamo in questo clima goliardico, prefestivo, Elena Militello, che invece non pensa alle vacanze, ma pensa al lavoro di voi italiani. Elena Militello, buongiorno. Buongiorno. Ricercatrice, promotrice di un progetto, altro che smart working, south working, cioè il lavoro al sud. Dov'è Elena Militello? Il cognome tradisce origini, no, siciliane. Io sono di Palermo originaria, ma sono stata tanti anni a Milano, ho studiato lì e poi lì sono andata all'estero. Quindi Milano, quindi Palermo, Milano, all'estero e adesso ritorno, come si suol dire, no? Adesso abbiamo lanciato questo progetto per immaginare che per alcune professionalità si possa tornare o anche decidere di andare a lavorare in un luogo diverso dalla sede di lavoro, per migliorare la propria qualità della vita e anche per l'Italia, sicuramente per dare una mano anche al rilancio. Al rilancio del Sud Italia. Devo dire che questa cosa, forse il coronavirus ha rimesso un po' in ordine questo tipo di priorità, cioè questa idea della prossimità, della vicinanza, del legame al territorio. Ci spieghi cosa vuol dire South Working? Perché lo slogan è bellissimo, cioè portare lavoro al sud, ma che cosa significa in concreto? In concreto immaginiamo di spostare alcuni lavoratori, aiutare alcuni lavoratori che desiderano vivere in un luogo diverso da quello in cui la loro azienda si trova, con il consenso dell'azienda, e farli lavorare da un luogo totalmente remoto, totalmente a distanza, pur non facendo riferimento al telelavoro da casa che abbiamo vissuto in questi mesi di emergenza, sì, ma invece immaginando una rete sul territorio di spazi di co-working dove ci si può recare, dove si possono garantire le esigenze di socialità e anzi forse stimolare una maggiore creatività fra settori diversi, fra persone di settori diversi che lavorano in ambienti contigui, e quindi sostanzialmente andare a lavorare sul mantenimento di una produttività molto elevata, cambiando le modalità di formazione dei lavoratori e degli amministratori e dei manager, che in maniera tale da andare a capire quali sono le esigenze di un vero lavoro agile, quindi non, ripeto, un telelavoro senza formazione, come è stato fatto ovviamente in questi mesi, sì, in cui non c'era stato il tempo di organizzarsi. È stata un po', esatto, l'emergenza, no? Per il momento lo smart working, un lavoro agile era, vabbè, state a casa e cercate di organizzarvi in qualche modo. Ma c'è già un primo progetto, una prima idea concreta da cui si vuole partire? O al momento è solo un'idea da sviluppare? Sì, il progetto è partito con una fase di osservatorio, quindi una raccolta dati da lavoratori che hanno espresso questo desiderio di tornare al sud, ma che finora non l'hanno mai fatto, quindi andare a comprendere le motivazioni per cui fino ad ora non c'è stato questo famoso controesodo e anche quali sono stati i pro e i contro percepiti di questi mesi di lavoro a distanza, per capire ha capito perché si vuole tornare, per esempio, al sud? È un voler ritornare alle radici, è un volere È un ragionamento complesso in cui sicuramente convergono molti fattori. Vi è, abbiamo notato, rispetto alle classiche motivazioni che si adducono, invece un'importanza del ritrovare la famiglia e i rapporti tra la generazione, diciamo, un gradino sopra di noi e un gradino sotto di noi, diciamo, giovani, e anche la possibilità di gestire meglio tramite un lavoro per obiettivi la flessibilità tra vita personale e vita personale, che forse talora era stata un po' messa da parte negli anni passati, in cui ci eravamo concentrati moltissimo su una produttività in senso tradizionale, anche come presenza fisica sul luogo di lavoro, certo, per lunghe ore. Insomma, l'idea sarebbe questa, Leonardo, se non hai capito. Il futuro è lavorare al nord, nel senso lavorare laddove c'è lavoro, ovviamente, magari anche al nord, ma vivendo al sud, un vero lavoro agile, un south. Certo, devono essere lavori, tipologie di lavoro che non obbligano una presenza fisica, no? Tu potresti farlo, potresti trasferirti, che ne so. No, ho dei parenti dove? In Sicilia, io, a Campobello di Licata. Ma non ti amano. Vero. È inutile negarlo. Questo è il problema, Leonardo. Tu tutte le volte mi dici che appena ti presenti lì ti guardano tutti schifati e non ti vogliono, quindi questo potrei è un problema da cambiare. Però l'idea è questa: da Milano per Bruxelles, ad esempio. Da Milano? Per Bruxelles, lavorare da Milano per Bruxelles. Sì. Un'idea relativa di tutto, in quanto tutta l'Italia, certo, e tutta l'Europa, quindi noi ci tutto teniamo è sud, esatto. Sì. Esatto, no, è bene, perché Elena Militello, se non sbaglio, ha un contatto con l'Università del Lussemburgo, no? Sì. E quindi, pur avendo un contratto con l'Università del Lussemburgo, sta nella sua Sicilia, no? Fisicamente, si può fare così. Certo, non vale per tutti i lavori, Elena. Ci sono quei settori, per esempio il settore in cui è nata un po' questa idea, il settore tech, in cui ci sono già tante virtual companies che hanno adottato questo modello già pre-Covid, però l'idea sarebbe, certo, di ampliarlo ad altri settori, andando a verificare la fattibilità anche nel campo, ad esempio, della consulenza, bancario, assicurativo, e proprio per questo stiamo creando, come secondo aspetto, oltre all'osservatorio, un database di aziende che adottano pratiche remote friendly, quindi con una promozione al lavoro agile. Perfetto, va bene, in bocca al lupo Elena Militello, è un'idea secondo me interessante, anche per dire che l'idea è sud, anche Milano è sud rispetto a Lussemburgo e a Bruxelles, quindi Leonardo devi stare qui, questo non è... No, io voglio andare dai miei parenti di Campobello di Licata, ecco, voglio recuperare queste mie radici anch'io, e vivere a Campobello di Licata. Vuoi recuperare, sì, anche il rapporto con loro? Dai, ho dei cugini di secondo grado, sì. Sì. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIC 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria, info e condizioni su nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. 1, nessuno, 100 Milan. Signori, siamo qui, abbiamo bisogno di un po' di positività a questo punto, per stare bene, per stare meglio. Sentite già ispirate, è arrivato il professor Janssen a darci i suoi consigli per stare bene. Buongiorno. Saluto professore. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24, voi sapete che ho fondato questo mio metodo di stare bene, e quindi dare strumenti alle persone per stare bene subito, senza aspettare anni di psicoterapia. E infatti bisogna agire, questa è la parola chiave, agire. Infatti sono di ritorno da un seminario che ho condotto nei migliori bar di tutta Italia. Vado come a fare bar? Nei bar, perché quello è i posti, i bar dove trovi la gente vera, è inutile andare a fare i seminari nell'auditorium, che non c'è gente vera, bisogna insegnare a stare bene alle persone vere dentro ai bar, che non hanno gli strumenti e i mezzi per cambiare la vita, no? Allora io dico, invece di bere il bianchino e invece di giocare a carte faccio il seminario, tu torni a casa con degli strumenti nuovi. Allora, il titolo del mio seminario era Tre parole per stare bene. Tre parole per stare bene. Tre parole. Tre verbi. Quali sono? Tre verbi. Tre verbi per stare bene. Bene. E così tra uno spritz e un Aperol Soda ho cercato di dare un contributo alle persone dei bar e a tutti voi anche per stare bene oggi. Tre verbi per stare bene. Allora, bene. Il primo verbo è negare. Negare. Negare. Negare. Negare che cosa? Negare? Che cosa, Alessandro, cosa? Negare? Cosa? I negare desideri, sempre? No, negare i desideri delle altre persone, negare che anche altre persone hanno problemi come noi, perché se tu cominci a interessarti di tutte le altre persone del mondo, ti fai però carico dei problemi delle altre persone, anche tu cominci a soffrire e questa cosa non ti fa stare bene. Quindi, si chiama empatia, modo, però. No, negare. È sbagliato, ti fa soffrire. Il modo per stare bene è negare. Negare sempre ogni problema delle altre persone. Degli altri. Se una persona viene da te e vuole a tutti i costi raccontarti i suoi problemi, sì, devi subito liquidare la questione dicendo quel problema ce l'hanno tutti, cosa vuoi che sia? Per esempio, se qualcuno ha problemi con i figli, devi dire tutti hanno problemi con io... i figli, cosa vuoi che sia? Se c'è qualcuno, per esempio, che ha qualche malattia, la scabbia, continua a grattarsi, la scabbia. E direi tutti a malattie e fingi di grattarti anche tu. Se viene da te qualcuno che ha problemi economici, sapessi quanti ne ho io, ti nascosto due portafogli, quello normale e quello vuoto. Se uno dice ho problemi economici, apri quel vuoto, tiri fuori quello vuoto. Guarda quanti ne ho io. Così liquidi subito la situazione, non ti fai carico dei problemi delle altre persone e questa cosa ti fa stare bene. Secondo verbo, scappare. Scappare. Se tu riesci a scappare da situazioni difficili, questa cosa ti fa stare bene. Se invece tu te prendi le tue responsabilità, soffri, ti appesantisci la vita. Perciò se qualcuno ti dice che è colpa tua, tu alza le spalle e scappa via. Non te prendere mai però le tue responsabilità. Coraggio, sì. Se c'è un lavoro da finire, tu prendi la valigia e scappa al mare. Vedrai che se è davvero urgente c'è qualcuno che lo fa al posto tuo. E prima che te licenziano ci vuole tanto tempo, non è facile. In più ti abbronzi, diventi più bello, fai carriera. Perché si sa che nel mondo di oggi l'immagine è tutto. Oppure se uscendo da un parcheggio urti un'altra macchina e la danneggi, scappa senza lasciare il tuo numero di telefono. Ma questo è proprio sbagliato. Senza lasciare il numero di telefono. Oppure se vuoi fare bella figura con persone che guardano, metti il numero di telefono sbagliato, quello del tuo vicino di casa. E gli fa anche un bello scherzo. Questa è malvagità. Terzo verbo, che siamo quasi in chiusura, è... Deridere. Però prendere in giro quelli che lavorano al posto tuo, tu torni che sei tutto bello abbronzato e deridi quelli che hanno fatto il fine settimana in ufficio a lavorare, e se loro si lamentano cosa fai? Quando passi vicino gli danno schiaffo sul copino. Copino. E i tre verbi per stare bene sono deridere, scappare e negare. Voi mettete in atto, cioè, per stare bene noi, gli altri chi se ne frega, insomma, professore. Sono problemi loro. Tutti hanno problemi loro. Va bene, professor Janssen, questi tre verbi sono la ricetta per stare bene. Io ho sempre un po' di dubbi su dove lei abbia preso una laurea, però visto che fai sondaggi nei bar, la ringrazio. Con lei chiudiamo, ci troviamo domani in diretta, siamo qui. Nessuno, nessuno.